Bonjour, bidon, nona puntata. Buongiorno, chissà se ci state sentendo, come avete notato abbiamo avuto qualche primo piccolo problema tecnico. Piccolissimo proprio oggi. Ma dettagli, evidentemente dettagli. Oggi è la tappa regina e quindi anche Facebook ha stabilito che la tappa regina deve avere più difficoltà sia per i corridori che per noi che proviamo ad andare in diretta e a raccontarvi il ciclismo con i mezzi che abbiamo. Quindi chissà quanti di voi ci staranno ascoltando. No, io leggo 19 persone in diretta adesso collegate, quindi ci siamo. Grazie. Dateci 19. Un segno di vita se potete. Sì, infatti. Allora, noi proviamo un po' in ritardo, già che sono le 11.35, a raccontarvi alla nostra maniera quello che è successo ieri e quello che è successo... E quello che succederà oggi nella tappa regina, in una delle tante tappe regine del Tour de France. Ormai siamo in crisi. Devo alimentarmi. Siamo forse. Legnosissimi, le gambe sì. Non rispondono. Abbiamo i crampi, come ieri. Come ieri. Lilian Calmejean ieri... Sì, come avrete avuto modo di vedere, la tappa di ieri è una tappa estremamente bella. Qui a Cagliari è arrivato il caldo, ma è arrivato il caldo anche lì in Francia. È arrivato già da qualche giorno. La novità è che ieri, oltre al caldo, è arrivata anche la prima fuga di questo Tour de France. Assolutamente. Una fuga tanto voluta, tanto cercata. Ieri i tentativi nei primi 2 ore di corsa sono stati tantissimi, però alla fine è arrivata la fuga, sono arrivati 2 fuggitivi, primo e secondo, Lilian Calmejean, Robert Gesink. Però lasciami adesso prendere il mio momento Beppe Conti, ormai è sì. Un appuntamento. Raccontaci qualcosa, imperdibile. Leo, raccontaci. Dai, una delle fughe più famose della storia del Tour, la più lunga in assoluto. Siamo nel 1947, il primo Tour de France dopo la Seconda Guerra Mondiale. Albert Bourlon, sconosciuto, parte l'11 luglio perché al traguardo volante di Esperanza ci sono 20.000 franchi in palio. La tappa è la Carcassonne-Luchon, lui parte al chilometro zero e si fa 253 chilometri in fuga da solo, arriva, vince, perché tanto il traguardo volante l'aveva conquistato, era solo, ha detto già che ci sono, continuo, è arrivato al traguardo e ha concluso la tappa più lunga, la fuga più lunga della storia del Tour, 253 chilometri. Lui, durante la guerra, era stato prigioniero in un campo di concentramento, provato a scappare 2 volte, alla terza c'è riuscito, intervistato sulla sua carriera ha detto: dite pure che sono più fiero delle mie evasioni che delle mie fughe. Comunque, quindi, Albert Bourlon, la fuga più lunga della storia del Tour de France. Ieri non è stata la più lunga, è stata comunque una delle più belle. Assolutamente. Per parlare della fuga di ieri è arrivato il momento di introdurre il nostro ospite speciale. Se c'è ancora. Sì, speriamo che anche lui non ci abbia abbandonato, ovvero Filippo Cauz. Ha avuto lo stacchetto anche oggi, che sì, onore. Ciao Filippo. Oggi Filippo ha lo stacchetto. Filippo, parliamo un attimo di pronostici, visto che ieri si era detto che sarebbe arrivata una fuga, l'hai detto anche tu, e tu avevi pronosticato un nome, ovvero allora, Tim Wellens. Più che in fuga, io ho detto tappa e maglia gialla. Tappa e maglia gialla, adesso potete vedere anche sulla schermata in questo momento sì. In onda la posizione. Cioè il tuo pronostico si è realizzato nel fatto che Tim Wellens è arrivato penultimo ieri, a 37 minuti dal primo. Beh, un colpaccio, Filippo. Cioè, diciamo che se c'era in palio il pane Carasau, ce lo devi portare tu a noi adesso. No, avrei dovuto puntare Yuri Sagan. Forse è la prima puntata in cui non l'ho citato tra i nomi per la giornata ed è preceduto bene, era la classifica che ci piace, ovvero quella detta al contrario. Ah, ma quindi tu stavi pronosticando la classifica al contrario, in realtà. Ora ti stai giustificando in questo modo, ma noi non dimentichiamo. Non imbrocco un pronostico dall'83, per cui non ho più alcuna aspettativa. Dall'83? Qual è stato l'ultimo che hai imbroccato? Ti ricordi? Credo fosse una volata di Bontempi. Una volata di Bontempi nell'83. Però sì, scusate, un attimo vi interrompo perché alcuni di voi ci stanno scrivendo che finalmente ci siamo. Davide Marzo, Matteo Bettega, Eva Capanni, yeah, ci siamo, dai. Ce l'abbiamo grazie, fatta. Grazie ragazzi. Ragazzi, voi che ci state ascoltando, che avete resistito bene ai 4 tentativi di diretta, fateci sapere la vostra presenza. E in clima di pronostici giusti sì. O sbagliati, oggi che è la tappa regina, mandateci i vostri pronostici. Chi vedete oggi vincitore al traguardo, li leggeremo, vi integreremo. Commentate, condividete anche il video se vi sta piacendo, in modo che questa impresa disperata che noi tre di Bidon e tutta la redazione di Bidon sta facendo possa avere un po' di visibilità. la domenica mattina, dove molti di voi saranno o in chiesa o al mare o a pregare i rispettivi dei, o compreso il mare. Filippo, invece, al di là di Valens e Sagan, poverini che hanno chiuso la tappa, ha vinto un gran corridore. Che ci dici di Calmejan? So che ti piace. Beh, direi senza paura sicuramente che è stata l'impresa più bella, anche l'unica impresa di questa Tour de France, ma indubbiamente l'impresa più bella di questo Tour, e forse anche fino a fine Tour ci porteremo questa certezza. Siccome mi piace esagerare, dico che quella di ieri è stata una giornata storica per il Tour de France. Addirittura? Sì, perché ha vinto un corridore straordinario, questo è uno che è un po' di anni che ci aspettavamo l'erede degli ultimi, erano stati Leclerc e Chavanel, non a caso suoi compagni di squadra, ma insomma l'erede dei grandi fuggitivi da Tour de France, che non è riuscito ad essere fino ad oggi un Pierre Roland che poteva essere, e Calmejan è ormai quasi un anno, e non di più, perché poi stiamo parlando di un corridore ancora molto giovane e in fase di crescita, è quasi un anno che dimostra di avere dei numeri pazzeschi. Quest'anno poi, se non sbaglio, è la settima vittoria stagionale, siamo su numeri quasi da velocista. Sì, sta disputando una stagione incredibile, è uno che non ha veramente mai paura di attaccare, si gestisce molto male, questa è una cosa che io amo nei grandi fuggitivi, perché se ti dimentichi di bere ti vengono i crampi a 5 km dall'arrivo, forse qualche errorino l'hai fatto, e ciò nonostante ti porta a casa le vittorie, fa le smorfie, sorride, esulta come un pazzo, insomma questi sono i corridori che danno un senso al Tour de France. Io ho visto ieri nei commenti al nostro articolo che è uscito sulla pagina di Bidon, nostro ma in cui io non ho messo mano, perché ieri la tappa l'ho vista di sera e di giorno, l'ho vista solo molto distrattamente, fortunatamente ho beccato una replica notturna sulla Rai, e qualcuno diceva che si resta un po' delusi quando i big non onorano la corsa. Adesso ci arriviamo ai big. Volevo aggiungere una cosa su Calmejan, che vediamo nell'immagine in maniera un po' scenosa. Ci arriviamo ai big, ma io volevo dire che ieri ha vinto un big. Ah sì, certo, un futuro big, anzi un presente big. Calmejan, Angelo, tu che sei un attore, vero, devi sapere che anche lui ha questo desiderio. Lui ha un fratello che è un fratello maggiore che è un attore, un attore di professione, e anche lui avrebbe voluto diventarlo. E tuttora pare che durante le cene, i pranzi di squadra, lui si diletti ad imitare altri corridori del gruppo. Ah, sì, pare che abbia un talento spiccato per le intonazioni delle voci. Ma quello è un talento. Quello è un talento innato. E per la mimica facciale l'abbiamo verificata benissimo. Assolutamente, ieri probabilmente durante la fuga stava imitando Vauclair, era un pezzo. Era un momento di commedia, no, stava soffrendo probabilmente, come la foto che stiamo trasmettendo adesso può provare facilmente. Comunque una tappa molto bella. Sì, una tappa molto bella dall'inizio, come poi abbiamo anche sottolineato ieri, io mi sono divertito un sacco nelle prime 2 ore di corsa, quindi abbiamo capito finalmente che senso ha trasmettere le tappe del Tour de France dal primo chilometro, perché ieri dal primo chilometro c'è stata bagarre, come si dice in questi casi, nel senso che davvero tutti o gran parte del gruppo ha provato ad andare in fuga, ha provato a inserirsi in questa fuga che tutti dicevano sarebbe arrivata, perché ieri era il giorno buono. Alla fine è andato via una fuga di 50 corridori, alcuni, anche noi, forse speravamo fosse si sarebbe trasformata in una fuga bidone, in realtà è stata una corsa d'eliminazione, perché poi di quei 50 ne sono arrivati due, e forse quasi quasi non ci arrivavano, perché dietro le squadre, la Sky essenzialmente ha cominciato a tirare per chiudere sulla fuga, e sono arrivati, siamo tutti felici. Ma a proposito di Sky, a proposito invece di squadre che dietro hanno provato a chiudere o hanno provato a fare chissà che cosa, io partirei parlando delle squadre dei capitani della BMC, perché mi ha colpito molto il fatto che inizialmente nella fuga ci fosse solo Van Avermaet, e dopo i compagni, la squadra di Port ha mandato in fuga anche Roche e Caruso, perché probabilmente memori di quello che è successo al Giro del Delfinato, quando Port si è trovato da solo e non aveva compagni davanti che potessero aspettarlo, hanno preferito mettere le mani avanti e oltre le mani anche tre corridori importanti. Cioè, ieri la BMC aveva in fuga Van Avermaet, Roche e Caruso. Poi dietro non è successo nulla, però per non saper né leggere né scrivere, la BMC si è mossa in questo modo. La Sky invece io non ho ben capito. Filippo, tu hai capito cosa volevano fare ieri? Ma io non ho capito neanche la BMC, io non sono così convinto no? di questa lettura che si volesse lasciare Porto da solo, poi non lo capiamo perché non abbiamo parlato con Piva o con Sandri, non so se siano gli altri direttori sportivi che hanno mandato al Tour. Però devo dire che era chiaro che ieri tra i big non sarebbe successo nulla, lo si sapeva. si vedeva fin da lontano. Ad ogni modo, privare uno come Port di due appoggi come Caruso e Roche, che sono i tuoi due forse ultimi uomini sulle salite, è stato forse un piccolo rischio. Sì, questo è andata e non si possono lamentare. Tra l'altro Roche ha tenuto fino in fondo, è arrivato ieri, sono arrivati sì due fuggitivi, ma gli altri due, quelli subito dietro, sono arrivati subito avanti al gruppo, per cui sì, ma l'hanno lasciato andare in fuga, insomma, non è che ci ha provato a vincere la tappa. Ma invece la Sky che manda avanti Landa ed Henao, li fa stare lì, poi li richiama prima dell'ultima salita per mettersi davanti a tirare. Cosa era un segnale di qualcosa? Che significava aver mandato due uomini così importanti in fuga? Sempre una protezione, nel senso, se dietro si scatena qualcosa noi ci siamo anche davanti? Perché? Ma, anche quando hanno via fughe così numerose un po' di paura c'è, perché poi il gruppo deve riorganizzarsi per stargli dietro e se questi prendono largo, avere dei propri uomini importanti, anche dei propri uomini comunque in discrete posizioni di classifica, può aiutare. E poi per concludere, effettivamente questo a Froome i compagni di squadra non mancano, per cui non è che no, non mancano proprio. Che si trovasse isolato penso sia questo, non credo ci sia molto altro. C'è invece un'altra frase fatta, purtroppo è finito sì. Il concorso delle frasi fatte, ma è un altro grande classico da quando il Tour manda le dirette integrali, per tornare al discorso delle prime ore di ieri, che dice sempre le prime due ore sono le più belle della corsa. E un'altra cosa che si dice sempre in occasione del Tour de France è potrebbero mandare le prime due ore e gli ultimi 20 minuti. Anche questo è vero, lo dicono sempre. Lo dico il problema è la parte centrale della tappa. No, poi sulla tappa di ieri, su quello che è successo ieri, pesa un sacco quello che sarà oggi. Ma di sì, oggi parleremo tra un po'. Chissà se alcuni di loro pagheranno oggi quello che è successo ieri, lo scopriremo. Ma noi andiamo avanti perché abbiamo la nostra rubrica nella quale scopriamo come sì. E i corridori e anche gli altri che girano intorno al Tour de France hanno visto la corsa. Quindi parte adesso 5T dalla corsa. Stacchetto, oggi funzionano sì, gli oggi stacchetti. Funziona la diretta non funzionava, ma gli stacchetti sì oggi. Sì, stacchetti. Vi ricordo comunque, a proposito di social network, di continuare a commentare, fateci sapere chi sono i vostri favoriti di oggi, visto che oggi è la tappa regina. L'abbiamo già detto? Tappa regina, tappa regina. La prima di 8 tappe regine. Tappa regina. Comunque, invece la tappa di ieri, che era, diciamo, la tappa principessa, non so come definirla, abbiamo proprio Pagetta. Sulla tappa di ieri il tweet di due compagni di squadra del Compagni di squadra. Che fanno i complimenti al giovane Calmen Jean. Uno è Thomas Vauclair e l'altro è Sylvain Chavanel. Li abbiamo già nominati, sappiamo che loro sono professionisti delle fughe e giustamente fanno i complimenti al loro pupillo. È interessante il tweet di Vauclair che dice: rispetto per Calmen Jean, tu puoi essere fiero di te, la tua squadra lo è in tutti i casi. Cioè, come per dire, se tu non lo, per qualche motivo non dovessi essere fiero di te stesso, noi lo siamo. Cioè, non sottovalutarti. Ma non mi sembra si sottovaluti. No, non mi sembra. Il giovane Calmen Jean. Non mi sembra. Invece Chavanel, grazie per le emozioni che ci hai dato, vittoria con panache. La panache è un bellissimo termine ciclistico che appunto vuol dire coraggio, voglia di provarci, voglia di fare sempre. Valentia. Comunque. Valentia. È il simbolo di questa squadra. Il simbolo di questa squadra è costruita sì. Sulla panache. Dobbiamo essere felici che Calmen Jean sia in una squadra così, e lei da sempre, perché lui correva nella Valle U, la giovanile delle squadre di Bernadot, mm-hmm. Per cui è cresciuto da lì. Infatti l'abbraccio con Bernadot ieri è stato abbastanza commovente. Sì, in realtà volevo interrompervi solo per dire: partiti! È partita la tappa? È partita la tappa, siamo in vera diretta. Wow. Perfetto, wow. Allora andiamo avanti. Noi a piè sospinto e vediamo un altro tweet, quello di Geraint Thomas. All'inizio della tappa, ieri Geraint Thomas stava guardando, cioè prima della tappa, stava guardando il rugby. Lui è appassionato di rugby, è gallese, e ieri stava guardando questa partita tra la selezione dei calciatori di tutta la Gran Bretagna, quindi c'erano tutte le quattro nazioni che compongono la Gran Bretagna, contro la Nuova Zelanda. Era sull'autobus, ha fatto mettere in TV la partita tra la selezione della Gran Bretagna e la Nuova Zelanda di rugby. Geraint Thomas è una figura estremamente simpatica, io lo apprezzo molto, è un po' il gatto silvestro, ogni volta che ci prova gliene succede una. Tra l'altro è simpaticissimo anche sui social network, su Instagram ha messo tra l'altro una fotografia molto bizzarra, non si capisce se sta facendo il karaoke o cosa. Andiamo avanti però perché poi ce la fai vedere questa qui del karaoke? Sì, la cercheremo. Oggi la nominiamo ma non la facciamo vedere invece una cosa bizzarra che abbiamo... Palla ovale. prestando la palla ovale, sta guadagnando Thomas, facciamo anche i complimenti ai team Milano che ieri hanno vinto l'Italian Bowl, campione d'Italia di football americano nel derby in finale contro i Rhino. E facciamo anche i complimenti anche a loro. Facciamo i complimenti anche a un altro protagonista. Lui se li merita davvero i complimenti. Che abbiamo trovato il bollettino della corsa, dove ci spiega esattamente quali sono gli interventi e quello che è accaduto in gara. E il bollettino delle cadute, è ufficiale. Esatto, il chilometro 153, il nostro amato Betancourt è caduto per puntura d'ape. Il motivo della caduta ufficiale è puntura di una vespa, in realtà. È stato punto da una vespa ed è caduto, povero Carlos Betancourt. Betancourt è una figura da idolatrare, Filippo? È un po' di più, direi. Di più del... Mi sembra un termine riduttivo. No, beh, è un corridore dal talento, forse il maggior talento visto negli ultimi anni, e sicuramente il corridore che ha fatto più precare il suo talento in questi anni. Io non smetterò mai di aspettarlo, Betancourt. Però pare sia in forma. Sempre pare sia in forma, insomma, sì. Beh, già che l'abbiano convocato per il tour. Esatto, insomma, è un buon segno. Scusate. Le cose non le fanno a caso, non si è visto ancora, sicuramente ha perso un po' quella ciccia che lo accompagnava e lo appesantiva abitualmente nelle ultime stagioni, e speriamo che a furia di pedalare, a furia di dimagrire causa punture. Questa cosa che Betancourt sia in forma ricorda un po' il povero Cunego, che ogni anno sembrava quello del 2004. 2004. Il Cunego del Ma quest'anno 2004. Cunego è quello del 2004 e quest'anno Betancourt pare sia in forma. Andiamo avanti, abbiamo trovato un altro tweet. È quasi un simbolo del Tour de France, la puntura di Vespa, no? Aspettiamo la foto, in genere. Speriamo che qualcuno ci mandi una foto della puntura di Vespa. Ce la ricordiamo parecchi di corridori belli gonfi da puntura. Vediamo. Comunque andiamo avanti, perché abbiamo trovato sempre su Twitter un nostro grande amico, lui... quello che non si può nominare, non so se ci avete fatto mai caso, che ora in qualsiasi diretta si parla di anni bui, di 7 anni bui, come Lord Voldemort, non si nomina, non colui, si può nominare. Colui, cioè, tu sai chi, ovvero Lance Armstrong, sì, la nostra nominiamo. Fonte di ispirazione per questo programma, perché è un nostro lui. Collega, esatto, come potete lui. Vedere chi ha possibilità di vedere il video, abbiamo trovato Lance Armstrong che fa una trasmissione radiofonica in diretta su Facebook, chissà se va in concorrenza con noi, c'è cioè allo stesso orario, fanno anche il podcast come facciamo noi, e se vedete la foto praticamente ha gli stessi mezzi che abbiamo noi, perché hanno due computer, cioè due Mac, sono in due con un microfono, non so se è migliore o peggiore del nostro, loro soltanto sono in un camper forse, sì, cioè sì, sì. Armstrong, siamo colleghi, poi ci scambieremo dei consigli, non so. Forse loro però non hanno lo sponsor. Loro non hanno la quantità e la qualità degli sponsor che abbiamo noi di Bonjour Bidon. Assolutamente, forse Armstrong può provare a chiamare la Nike, magari gli rispondono. Ho qualche dubbio che gli risponda. Se gli rispondono gli chiedono qualche risarcimento di qualche tipo. Sicuramente lui non può chiamare invece il nostro sponsor. No, questo è solo nostro. Che abbiamo l'onore di avere ospite in questo momento. Vi mandiamo in onda lo spot del nostro secondo sponsor. Hey guys, 2 more minutes. 2 minuti. Mi sto rinforzando, pupacci. Altrecin. Crema alla teina. Abbiamo avuto un problema anche con lo sponsor, comunque tecnologia asburgica per i vostri polpacci, lo dico io. Altrecin per... si chiama. Altrecin, ma sì. Oggi i polpacci sarebbe bene prepararseli e controllarseli bene per la tappa di oggi. Posso dire una cosa, probabilmente ieri Calmejan non ha usato Altrecin. Ah, per quello dice aveva... avuto i crampi. Sì, sì, infatti. Sarà per quello. Consigliamo chi a Calmejan. Chi non usa Altrecin. Ma a proposito... Ma credo anche che Calmejan avesse in tasca tutta la collezione degli orologi sbagliati del Tour de France, per cui si è anche appesantito, insomma. Ah, e si dice, dice che si è appesantito per quel motivo. Sulla tappa di ieri. La collezione completa. Ma allora, siamo lanciatissimi, la tappa è partita e ce la presenta Pietro, sì, Pisaneschi. Assolutamente, abbiamo il nostro Pietro che ci parla della tappa che verrà, anzi, la tappa che è venuta. Già. Bu- Buongiorno a tutti da Pietro Pisaneschi e benvenuti alla presentazione della nona tappa di questo Tour de France 2017 da Nantes-Chambéry per 181 km, di cui solamente una ventina pianeggianti. Sarà infatti una frazione totalmente votata agli scalatori, con ben 7 vette da conquistare. Ce n'è veramente per tutti i gusti, ammesso che siate degli amanti delle salite e se siete dei cultori di ciclismo e di Tour de France, non potete perdere l'appuntamento con questa tappa che, pur essendo posizionata solamente alla fine della prima settimana di corsa, promette, senza tema di smentite, di regalare spettacolo e forse anche qualche sorpresa in classifica generale, con i corridori non pienamente in forma destinati inesorabilmente ad abbandonare le pretese di vertice. Le prime tre salite di giornata sono segnalate di seconda e terza categoria. Si tratta della Côte de Nérol, del Col de Berentaine e della Côte de Franchelet. Dopo questo, per così dire, riscaldamento, ecco la prima salita hors catégorie di questo tour, il Col de la Biche, circa 10,5 km al 9%. Dopo un brevissimo tratto in discesa, il gruppo e i probabilissimi fuggitivi di giornata affronteranno il Grand Colombier, 8,5 km al 9%, ma con un tratto centrale che supera il 14% e arriva a toccare punte del 22%. La Côte de Jonger, salita di quarta categoria, anticipa al Mont du Chat, 9 km al 10% con un pezzo al 14%, dalla vetta 13 km di picchiata verso il traguardo di Chambéry. Per una tappa come questa servono cuore e gambe, perciò il mio nome caldo di giornata è quello di Pierre Roland. È tutto per oggi, l'appuntamento è a martedì con la presentazione della decima tappa di questo Tour de France. Vi invito a seguire il post tappa ovviamente su Bidon e a cliccare sulla mia pagina Facebook personale, la doppia P, au revoir. Allora, mentre andate tutti quanti a cliccare sulla pagina personale di Pietro Pisaneschi, Filippo, la tappa ma di scusa, oggi. Scusa, prima di Filippo, ma Pietro anche oggi aveva una voce un po'... Ma che fa la notte Pietro Pisaneschi? No, oggi era un nuovo tributo a Paolo Villaggio, fortunatamente. Pietro ha registrato con la patata in bocca l'accento svedese e la... Ecco, ha senso, ha senso. La tappa di oggi, Filippo, pronostico non te lo chiederei perché, visto come va di solito, magari meglio non farlo. Però che ci aspettiamo? Ah, io dico sempre la stessa frase, la dico anche oggi più che mai, oggi arriva la fuga. Oggi arriva la fuga, dici? Che mi sembra abbastanza disegnata per i fuggitivi, anche perché la tappa di oggi succede qualcosa di particolare, ovvero verosimilmente oggi si assegna la maglia qua, perché ci sono 722 Gran Premi della Montagna nel corso del percorso di tappa, e chi vuole prendersi questa maglia oggi deve darci dentro, anche perché i Gran Premi della Montagna in categoria, a parte il Mont du Chat, sono nella prima parte di corsa, per cui sono quelli che verranno assegnati ai fuggitivi. Sì, c'è questa... certo non può permettersi di controllare la corsa fin dall'inizio con un percorso del genere, e credo che oggi la fuga possa prendere abbastanza spazio. Devono esserci nomi fuori di classifica, la classifica è ancora cortissima, perché vedevo che nel giro di 3 minuti sono in 26 addirittura. 26 in 3 minuti. Per cui sono veramente il 26esimo, che è Chavez, a 2 minuti e 44. Sì, allora c'è questa doppietta a metà tappa con il Col de la Biche, dove Biche non vuol dire biscia ma cerva, Angelo, abbiamo scoperto questa cosa, e il Grand Colombier. Due montagne, due salite hors categorie. Il problema è che dopo il Grand Colombier ci sono circa... C'è un piattone di una trentina di chilometri, anche di più. Poi una salita di quarta categoria e poi questo famigerato Mont du Chat che tutti aspettano, molti pensano che possa essere forse la salita decisiva del tour, ma magari quando si caricano troppe aspettative su una corsa e su una salita, poi magari invece non succede granché. Perché? Perché anche oggi, dopo l'ultima salita, non c'è l'arrivo, cioè l'arrivo non è posto in salita e nemmeno in discesa, perché al termine della discesa tecnicissima del Mont du Chat ci sono altri 13 km, qualcosa del genere, di pianura. Questa assomiglia un po' alla tappa di ieri, quella di oggi, e quindi chi deciderà di attaccare sul Mont du Chat dovrà considerare che dopo potrebbe incontrare difficoltà nell'ultimo tratto con i 13 km pianeggianti. E c'è una differenza? Ah. Sì, vai. No, rispetto alla tappa di ieri c'è una differenza sostanziale, che ieri comunque ti arrivava più o meno su un altipiano, oggi ti arriva al termine di una discesa. È una discesa, come dicevi, tecnica. Il Mont du Chat, tra l'altro, è una salita quasi sconosciuta del Tour de France, solo la seconda volta che l'affronta. Sì. E l'hanno fatta al Delfinato, ma il Delfinato sempre come due di picche. e prima il Gran Colombier, che è una discesa ancora più tecnica. In tutto questo verosimilmente pioverà tutto il giorno, e nella parte centrale della tappa le previsioni segnalano anche dei bei fulminetti. Addirittura questo... io avrei una paura tremenda, io ho una paura dei temporali. Questo complica veramente tanto questa tappa, sia da un punto di vista di controllo che da un punto di vista fisico. Ci sono corridori che reggono molto male il maltempo, certo, anche in classifica. Penso purtroppo a Fabio Aru, ad esempio. Certo. Non se l'è mai cavata con il maltempo, anche Froome non è un drago con il maltempo. E con queste discese molto difficili, insomma... Cioè, Froome non può scendere come ha fatto vedere in quella maniera bizzarra negli ultimi anni. Dovrà fare un po' più di attenzione. No, su Aru noi manteniamo il basso profilo, come avevamo fatto per la planche de Bellefille. Diciamo soltanto che al Giro del Delfinato sul Mont du Chat è stato lui a passare per primo, ma lo mettiamo lì tra le righe. Ultima cosa, altra differenza fondamentale con la tappa di ieri è che le salite di oggi sono impegnativissime, cioè tutte e tre, il Col de la Biche e il Mont du Chat hanno pendenze paragonabili a quelle del Mortirolo, sono più corti ma le pendenze sono quelle, siamo intorno al 10% di media, quindi sono sì, salite... Il Mont du Chat si dice che sia una delle salite più dure di questo Tour de France. E della storia del Tour in generale. Addirittura. Sì, ho letto anche questo. Va bene, vediamo un po' invece voi che ci state ascoltando, perché sono arrivati i vostri pronostici. Sì, allora, leggiamo un po'. Intanto Francesco Bozzi, che è un nostro collaboratore, fa parte della redazione di Bidon, ci informa che De Mar si è già staccato. Ieri è arrivato entro il tempo massimo, probabilmente oggi farà un po' più fatica. Poi Eva Capani spera Aru, lo speriamo anche noi, ma diciamolo in silenzio. Paolo Bontempo, anche lui di Bidon, ci dice Maika. Maika è un bel nome anche per la tappa di oggi, anche se vuole competere per la classifica generale in fuga difficilmente. Ma c'è il suo abbonamento alla maglia Pua che oggi potrebbe scadere. Sì. Davide Marzo invece dice oggi dipende tutto dai team, dei capitani e dalle loro condizioni. Se non fanno ritmi alti può arrivare un'altra fuga, certo. Lui direbbe Vauclair e o Cummings, anche Cummings è un bel nome. Oppure un Contador si merita una tappa alla carriera, però la tappa alla carriera bisogna conquistarsela e forse lui in questo momento non ha la condizione ideale per conquistarla, lo speriamo. Oppure Aru anche da parte di Davide Marzo. Simone Galbiati, Gesing se c'è una fuga o Froome se vince un big. Su Froome lo danno in molti, onestamente. Froome in molti, forse appunto per, essendoci la discesa come parte forse decisiva della tappa di oggi e sapendo che lui è migliorato così tanto in discesa potrebbe fare la differenza. Però il maltempo, come ha detto Filippo, magari lo condizionerà. E basta, ci sembra questo. Grazie a tutti voi. Oggi ci avete scritto. E Luigi intanto ci aggiunge che la partita di rugby è terminata 15-15, la partita di rugby che stava guardando Geraint Thomas ieri. Quindi grazie anche per questa sottolineatura. Un pareggio. Speriamo che non sia un pareggio quello di oggi. Speriamo che oggi non sia un pareggio sulle strade del Tour de France. Salutiamo Filippo. È difficile che sia un pareggio. Oggi no, oggi succede qualcosa. Penso anche oggi, ecco, se ci fosse davvero brutto tempo si rischia di passare per l'armistizio e nessuno combina niente. Se il tempo fosse vagamente governabile, io penso che negli ultimi chilometri del Mont du Chat qualcuno si muoverà e... Nessuno come prima? Come si dice in questi tempi, voleranno i secondi. Nessuno sul i secondi. Una volta erano i minuti, ma va bene così. Nessuno sul Gran Colombier. Prima con quei 30 km di pianura in mezzo, nessun uomo di classifica oserà muoversi. Nessuno si muove prima, secondo te. Anche perché è ancora molto presto, le squadre sono tutte al completo, tutti hanno ancora i gregari, insomma, questa tappa ad oggi nell'economia del Tour de France è arrivato neanche a metà. Non si presta a grandi imprese, poi magari invece tra 2 minuti Betancourt parte e arriva al traguardo con 45 minuti di vantaggio, tutto è possibile. E se non lo punge una Vespa... Continuo a credere nei fuggitivi. Fuggitivi. E non in Betancourt. Fuggitivi, io invece posso fare un nome oggi? Vai. Io invece oggi dico... Romain Bardet, dai, me lo gioco oggi Bardet. Diciamo discesa. Che col maltempo quel che è certo è che tutti i giornalisti hanno pronto... l'aggettivo giornata dantesca già l'ha detto Calmejan ieri, ma dantesca non lo era dal punto di vista meteorologico, chissà se lo sarà domani. Giornata ma dantesca è stato per Calmejan. Come scusa? Ieri lo è stato per Calmejan. Ah, per lui sì, per i suoi polpacci e le sue cosce soprattutto. Filippo, ci sentiamo non domani ma lunedì. Ma martedì. Ah, martedì. Domani no. È lunedì, Angelo. Ah, perfetto, allora ci sentiamo quando ci sentiamo succederà. Martedì. Va bene. La domanda conclusiva era, a parte che non mi avete chiesto il nome da mettere in ultima posizione, Ma non te lo chiediamo per bene, il bene che vogliamo ai corridori. La domanda conclusiva è: lo vediamo in fuga di nuovo Calmejana, accetterà i far punti per la maglia tua o no? E la risposta è? Non so, io faccio la domanda. E chi la fai? Secondo me no, oggi ci proverà, ma ha speso molto ieri. Sono d'accordo, secondo me oggi si stacca Calmejan, però la volontà e la capacità non vanno spesso d'accordo. Che bella frase. Bene, grazie Filippo, sì, ai prossimi giorni. Sono vincitore, ma non ve lo dico, scappo, vado a bere. Vai a bere, a vedere la tappa, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Noi andiamo avanti, abbiamo parlato del Mondusha, che è questo monte che tutti sì, aspettano, il monte del gatto. Gatti e no, uno non mi dire. Degli argomenti del nostri resoconti. Anche oggi dal monte Ocra, del gatto. Sì, dal monte del gatto abbiamo niente meno che Fiammetta Ruiu. Questa è la storia di Franca. L'inizio? Questa è la storia di una battaglia per la giustizia. Sì. Questa è la storia di un amore, questa è la storia di Franca e dei suoi 17 gatti. Ma forse vi starete chiedendo dove inizia questa storia. Esatto, infatti. Questa storia inizia dove la terra incontra il cielo. Eccola. E il cielo incontra la montagna. Ah. Proprio lì, in fondo, dove la montagna incontra il cielo, poi giri a destra e la terra incontra il cielo. A destra, vai girare. Avanti e alla seconda a sinistra il cielo incontra la montagna. Ecco, proprio lì Franca ama i suoi gatti. Li nutre, li aiuta, li coccola e crede nelle loro infinite e sfaccettate possibilità. Brava. Così Franca decide di iscriverli al Tour de France. Ma come, i gatti? Ma pare che il regolamento non preveda questa possibilità. Mi sa di no, maledetto. Perché sono gatti. Certo. No. Forza Franca, combatti Franca, combatti il pregiudizio, impegnati in una battaglia legale, paga avvocati, compila documenti, no, lotta per sconfiggere il razzismo. Brava. Ma ahimè, a volte il mondo degli uomini non è pronto per alcuni passi che aprirebbero scenari assurdi ed imbarazzanti. Evviva il mondo degli uomini. I 17 gatti di Franca non potranno correre il Tour de France perché sono gatti. E certo. Franca perde la speranza, perde la casa, perde il posto di lavoro, perde anche la coincidenza di qualche volo. Pure i voli. Adesso Franca continua ad amare i gatti, ma loro l'amano un po' meno perché si sentono delusi. Poveri gatti. Così. Mentre Franca apre l'ennesima scatoletta di bocconcini, una lacrima scivola sul suo viso ed un airone zampilla nel cielo. Attonito. Attonito, ovviamente attonito. Sono attonito anch'io. Perché Fiammetta oggi ha inventato nuove strade. Oggi ha cambiato l'ordine delle cose. Mi ha pensato all'inizio. Perché l'artista è così, non ti dà esattamente quello che ti aspetti. Cambia i riferimenti. Assolutamente. Quando l'artista è questa ragazza è brava, questa ragazza è brava. Brava. Io più che attonito avrei un altro aggettivo, ma forse me lo tengo per me. Ma perché tu sei sotto sotto uno degli organizzatori del Tour de France che non accettano i gatti di Franca. Ma ecco, così è il tuo cuore. Poi Franca, italiana oggi, una donna. Quante novità Fiammetta. In Francia non ci può essere gente che si chiama Franca. Certo perché, che ci può essere. Vedi che sei razzista allora. È come quelli del Tour de France che non vogliono i gatti. Sono un razzista. Oh mamma mia ragazzi, dai, andiamo, mi sa che andiamo a vedere la tappa, che forse è meglio. Oggi è stata una giornata faticosa per tutti. Sì, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi con false partenze, con 80.000 tentativi di andare in diretta. Alla fine ce l'abbiamo fatta. E adesso andiamo a sederci comodamente sul nostro divano e osservare, a guardare la tappa che dovrebbe essere la tappa regina di oggi. Che la prima tappa regina, comincia ad accendere il ventilatore, sì, perché io voglio, mi sono preparato una frase conclusiva, una volta tanto facciamo una frase quasi seria. Vai, ci sono 7 montagne. Sì. A me sono venute in mente le 8 montagne invece di Paolo Cognetti che ha vinto il premio Strega l'altro giorno, e una delle frasi più belle di questo romanzo, che è bellissimo tutto, sai qual è? Qual è? Se il destino esiste, abita nelle montagne sopra la nostra testa. Anzi, scusa, qualsiasi cosa sia il destino, abita nelle montagne sopra la nostra testa. Ho sbagliato pure la citazione, ma era bella, volevo farla. Hai fatto bene comunque a farla. Hai fatto bene. Andiamo a vedere quale sarà il nostro destino. Il destino assolutamente. Del vi diamo appuntamento a martedì, domani è giorno di riposo anche per noi, a meno che non succedano cose incredibili che vorremmo assolutamente commentare. Ci vediamo. Ma anche no? Ma no. Infatti, domani mattina dormiamo. Domani si dorme. Oggi pomeriggio no. A martedì, buona ciao. Giornata, buona tappa. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me, un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis-Jean Bobin.